io spero. Ah, mia signora, maneggia affatto malando. Che mi narri, Dorinda, di sua strana follia, solo in cagione d'angelica l'amor e gelosia mi fa pietà ed ingrata mi crederei in non avermi amato se l'amor fosse arbitrio e non un favo. Pure se Orlando il concedete onumi non fosse più dal suo furore oppresso, vorrei sperar che vincerei